Io lo so che se uno non ha un parente in carcere, se non ha vissuto questo dramma, è più lontano. E difatti avevo pensato a una specie di titolo per alcune iniziative che stiamo già facendo con la Camera Penale, e lo volevo chiamare Viaggio nello Spazio. Viaggio nello Spazio perché anche voi entrerete in questo spazio. Si chiama Viaggio dello Spazio in presenza di gravità, non in assenza di gravità. Quanto ci si mette ad arrivare nello spazio? Chilometri, chilometri, migliaia di chilometri. Ecco, noi come cittadini siamo a migliaia di chilometri lontano dallo spazio carcerario e vorremmo accorciare questo spazio. E vorremmo far capire che bisogna avvicinarsi andando dentro oppure lavorando perché escano in un certo modo e possano vivere la città. Abbiamo pensato a una piccola iniziativa, sempre del concetto di viaggio nello spazio, per i carcerati che possono andare a teatro. Oggi ci sono qui quasi tutti i direttori dei teatri di Bologna, l'ERT, l'Arena del Sole, San Filippo Neri, il Deon, il DUS, le celebrazioni, l'Europa Auditorium. Perché? Perché vorremmo fare quello che è stato fatto 3 anni fa per un mio spettacolo, portare dei detenuti per tutte le stagioni teatrali in teatro, un altro luogo, un altro spazio, per parlare di arte, per parlare di teatro, musica, opera, concerti. Allora hanno aderito tutti i teatri di Bologna proprio perché questo posto, i posti, non gli imposti dove sono cacciati dentro, eccetera, non reggono più. Allora poter aprire, poter far vedere a queste persone che esiste anche arte, come ho detto, musica, teatro. Lo spazio che vedete qua è veramente il top della gamma, nel senso che siamo al massimo dei requisiti estetici. Considerate che ci si sta in 4 qua anche, letti a castello, e sappiate che qui dentro ci sono persone che non dovrebbero essere qui dentro perché il tema della sostanza stupefacente, cioè droga e malattia psichiatrica, non ha niente a che vedere col tema carcerario. Sappiate che la protezione animali ha regolato lo spazio che deve avere un cane in un canile o se viene messa è di 4 metri per 4 con possibilità di respirazione e sbarre aperte. Si è parlato di umanizzazione, ma a me viene sempre questo dubbio, cercare di dare dei diritti, non dei favori. Alle volte quando il detenuto chiede determinati spazi, determinata igiene, determinata assistenza, non è che gli fai un favore se gli dici va bene, è un diritto, non è un favore. Allora è incredibile come noi abbiamo sempre l'idea dell'eccezione, sì vabbè ma cosa vogliono, e io sono per buttare via la chiave, nel senso che non ci devono essere più le porte, sono per buttare via la chiave, ma non ci devono essere più le porte. In Norvegia hanno pensato che più di 20 anni non li puoi dare, perché dopo i 20 anni vuol dire che hai fallito tu istituzione, hai fallito tu politica. I libri si sprecano, hanno raccontato tecnicamente, economicamente, amministrativamente quanto la chiusura delle carceri converrebbe a tutti. A tutti, allo Stato, quanto mettendo dei soldi in altre situazioni si riesca a limitare. C'è solo un 7%, è stato scritto, di irrecuperabilità in tutti i detenuti. 7%. Pensate, tutto il resto è ma sì, adesso l'indulto, ma sì, adesso l'amnistia, state buoni. Cioè non è più possibile. Poi salto sui temi dei suicidi, di quello che è successo a Modena, a Santa Maria Capovetere, tutta roba che noi vediamo con i genitori davanti, con le persone, come abbiamo visto, perdonatemi questa invasione, noi vediamo gli Alberto Trentini, vediamo i Regeni, eccetera, che hanno chiesto, vogliamo sapere cosa succede lì dentro, dov'è, perché è morta. Pensate a tutte le famiglie di persone che non possono contattare i loro detenuti. È semplicemente un richiamo non all'umanità, al diritto. Ma oggi non va di moda il diritto. Allora io dicevo semplicemente questo, e gli artisti, le persone, i musicisti, gli attori eccetera hanno un ruolo, avranno un ruolo anche, perché non importa solo andare dentro ma sensibilizzare, andare nelle scuole, parlarne. Lo so, in questo momento il problema carcerario non è così evidente, adesso ci sono guerre ma anche qui ci sono detenzioni, la detenzione è sempre una forma di violenza e credo che ogni cittadino debba viverlo come se dentro ci fosse il proprio figlio.